È l'ora di articolo 21. Dalla regia potevano risparmiare questo jingle molto molto pietoso, vabbè dai. Ritorno a questa nuova avventura. Un saluto a tutti da Andrea, buona serata, oppure buon pomeriggio, buona mattinata, buona nottata, se magari ci state ascoltando in replica. State ascoltando per l'appunto Radio Oltrepò International, questi sono i programmi in diretta con la mia conduzione. Un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici che magari ci stanno ascoltando sui vari social network, Twitter, Facebook. Un saluto anche a chi è che ci ascolta dall'esterno, magari dal nostro sito. Ritorniamo insieme con questo nuovo programma che si chiama Articolo 21. Non è articolo 31, però insomma può capitare che magari, essendo un po' rinco, magari può capitare che mi sbaglio, dico articolo 31 invece di articolo 31. Il programma si chiama Articolo 31, vi chiederete giustamente perché, magari i giovanissimi non sanno che cosa sia questo articolo 21. È un articolo della Costituzione italiana che magari molti lo conoscono, che diciamo così sancisce, non mi sono incartato bene, la libertà di stampa, di parola. Anzi, facciamo così, vi faccio ascoltare il nostro promo che cita proprio il primo passo di questo articolo della Costituzione italiana, che direi, oserei dire, è proprio ad hoc per la nostra emittente radiofonica e anche per tantissime radio italiane che goliardicamente, passatemi il termine tra virgolette, ogni tanto magari si accendono sul web casualmente. Allora ascoltiamoci il jingle che ci spiega in poche parole che cos'è l'articolo 21 della Costituzione italiana. Radio Oltrepò International è una web radio personale, non ha entrate, utili, non ottiene alcun tipo di finanziamento, non trasmette spot pubblicitari. Le opere musicali programmate sono di tipo Creative Commons, precisiamo, Creative Commons, licenza attribution, by. Per ciò che concerne il resto, per i programmi parlati, ci rifacciamo all'articolo 21 della Costituzione italiana, che dice: tutti hanno diritto di manifestare, liberamente, il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo, di diffusione. La stampa, non può essere soggetta, ad autorizzazioni, o censure. Buon ascolto, con i nostri programmi, un abbraccio, a tutti, da Radio Oltrepò International. Bene, abbiamo anche ripassato l'articolo 21 della Costituzione italiana, quindi se la stampa non può essere soggetta a censure, a mio avviso penso che le web radio non possano essere assolutamente soggette a censura, tantomeno se queste radio sono della categoria personali no profit, nel senso che la nostra radio non ottiene alcun finanziamento, alcun utile, ci divertiamo a trasmettere, però hanno trovato anche la gabola. I nostri cari legislatori da noi eletti a Roma hanno trovato questa gabola di far pagare alle web radio personali, che in pratica non guadagnano nulla, tipo la nostra, anche se noi siamo veramente una radio open source al 99%, perché tutta la strumentazione e tutto viene fatto gratis, appoggiandoci dei server di streaming gratuiti, listentomyradio.com, un abbraccio agli amici di listentomyradio.com che ci fanno, insomma, trasmettere online. Dicevo, un discorso un po' contorto, però per dirvi che, insomma, la legislatura italiana in materia scusate scusate per il buco, ma ho avuto un problema tecnico. Dicevo, i nostri legislatori a Roma hanno confezionato una legge che tutela le web radio molto molto particolare. In pratica, uno che vuole creare una radio musicale con i successi di Vasco Rossi, di Ligabue, eccetera eccetera, deve pagare sia la SIAE che un'altra società. Questo accade solo in Italia, mentre negli Stati Uniti abbiamo un server di streaming, mi pare che sia 360 sì, live, adesso non mi ricordo bene il nome, comunque voi lo conoscete. Ecco, questo vi paga i diritti d'autore, invece in Italia bisogna pagare tutto. Ecco, questo è il succo della questione, perché il programma si chiama Articolo 21 della Costituzione, perché fino a che sarà possibile trasmettere parlando, si spera sempre, ma in Italia mai dire mai. Ecco, il programma è questo, prende spunto da questo articolo della Costituzione, però poi noi parliamo di tutt'altro, di cose frivoli, di argomenti simpatici, tipo i programmi che ci saranno questa sera in TV, anzi ne parleremo dopo il primo disco. Era un discorso un po' contorto, ma ho avuto anche un buco perché c'era un piccolo problema tecnico. Va bene, dai, sono cose che capitano. E poi volevo informarvi che assolutamente non possiamo passare le canzoni coperte dai diritti d'autore, noi passiamo delle canzoni Creative Commons, come vengono definite, sono delle licenze, sono 6 licenze libere che consentono la diffusione, almeno 2 licenze di queste 6 consentono la diffusione attraverso radio, scusate, ma purtroppo non ho neanche il testo, vado sempre a ruota libera. Direi di ascoltarci il primo brano e poi ritorneremo a parlare di programmi televisivi. A tra poco. Fino all'ultima notte nota questa canzone stupenda di Jamison Young, Crush. Ecco, questa è una delle tipiche canzoni che purtroppo i media mondiali non passano, almeno quelli che trasmettono le canzoni coperte dai diritti d'autore della CIA e compagnia bella, però sono piccoli gioielli che potete anche voi ascoltare sul sito www.yamendo.com. In questo sito trovate un sacco di canzoni libere dai diritti d'autore consoni e le potete scaricare, ascoltare e se la licenza lo consente potete anche diffonderlo, come sto facendo io questa sera, tramite onde radio, in questo caso radio in streaming diretto sul web. Ora parliamo invece dei programmi televisivi per questa sera sulla piattaforma Sky. Mitico veramente Sky, su Sky Cinema 1 alle ore 21, Prima TV, Film Commedia, Bridge Wars, La mia migliore nemica. Invece su Sky Cinema 24, prima avevo letto che, ma sono fuori, c'è L'Argentino. Deve essere la continuazione del primo episodio andato in onda ieri. Sky invece Cinema Family c'è Inseguendo la Vittoria, un film commedia. Sky Cinema Hits propone Il Divo, film drammatico. Vediamo un po' uno dei miei canali prediletti, Sky Cinema Max questa sera c'è Film Commedia Hudson Hawks, Il Mago del Furto. Aspettavo un bel film horror in prima serata, ma probabilmente c'è un thriller proprio alle ore 22.50 sempre su Sky Cinema Max. Attacco al potere. Passiamo invece a Sky Cinema Mania, che questa sera propone Prima TV, film thriller, beh ci siamo, Passione Fatale. Vediamo un pochino Sky Cinema Italia, che non delude mai, Film Commedia Panarea del 1997. E invece su Sky Cinema Classics il film drammatico Reds. Diamo uno scorcio anche a Cult, che in questi ultimi mesi si è notevolmente rinnovato, trasmettendo veramente a macchia un sacco di film commedia italiani alla grande, veramente. E anche questa sera non si smentisce con il film commedia Non c'è due senza quattro, con Bud Spencer e Terence Hill. Metro Golden Mayer, l'altro canale di Sky americano, prima serata alle ore 21, Il Grande Coltello. Vi ricordo quello che vedrà il sottoscritto questa sera, imperdibile Chi l'ha visto su Rai 3. Adesso non ho qua davanti gli altri canali Rai e Mediaset, anche perché guardo poco Mediaset, quindi non vi so dire se ci sia, non so, Grandi Fratelli o Grandi Sorelle, perché non mi piacciono. Comunque questi erano i programmi, almeno per quanto concerne la TV di Murdoch, e poi vedremo se magari troverò qualcos'altro di interessante per questa sera. Andiamo avanti ora con un altro grande disco, veramente un artista che dispiace proprio di non vederlo passare magari su Radio DJ eccetera eccetera. Lui si chiama Kamerer, è un cantante, un artista, produttore svedese, e ci presenta una canzone veramente bella di musica lounge, come che dice Tognazzi nello sport, molto simpatico. Comunque la canzone è veramente da brivido, troppo dolce e carina, veramente l'atmosfera. Magari se ci state ascoltando in qualche locale potete anche utilizzarla come sottofondo. Con voi c'è Andrea, questa è Radio Ultrapuo all'interno di Articolo 21. Abbiamo Kamerer dalla Svezia con Style. Thank you. Thank you.